Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ci deve essere pure un posto migliore. Sì, c'è. Mi ci sono trovato. Io? Scusa, parlavi con me? Esiste un posto migliore. In Settopia. Oh, davvero? Svitato a ore 3. Non puoi capire finché non ti ci trovi e non lo vedi da te stesso. Puoi essere una formica libera lì. Le strade sono pavimentate di cibo. Nessuno che ti dica cosa fare. Niente guerre. Niente colonia. Non sarei mai dovuto andare via. Sì, affascinante. Pattugliavamo a vasto raggio. Mi sono staccato dalla mia unità. Niente di meglio di un disturbo da stress post-traumatico per finire. E l'ho vista! In Settopia. Ti dirigi verso il monolito. 1000 centimetri oltre i canyon, verso la terra del rosso e bianco. Oggi, 2 aprile, in tutto il mondo si celebra la giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo, indetta dall'ONU. Per me questa giornata da qualche tempo corrisponde al termine di insettopia. Cos'è insettopia? Insettopia è la città utopica per gli insetti. È un luogo ideale che compare in un film a cartoni animati di parecchi anni fa, proprio dell'anno in cui nacque mio figlio, il 98, la DreamWorks, Zeta la formica. Dopo aver lungamente vagato, questa formica ribelle, diversa, totalmente atipica rispetto alla colonia delle formiche, arriva finalmente nella città eletta, nel luogo eletto di tutte le formiche, Insettopia. Insettopia è un luogo fantastico, bellissimo, dove ogni insetto si trova a suo agio. Sembra fatto a misura proprio per gli insetti. Insettopia altro non è che gli avanzi di un picnic alle propaggini estreme di Central Park. L'ultima sequenza del film è un'immagine che si allarga, si vede la città felice in cui tutti gli insetti sono felici, poi si allarga l'inquadratura, si vede Central Park, la skyline di New York, si capisce che nella grande città dei grandi uomini il luogo in cui possono essere felici i piccolissimi insetti è semplicemente quello che per gli uomini è soltanto un luogo in cui buttano i loro avanzi. E io ho pensato che oggi più che mai vorrei lanciare l'idea che dobbiamo creare l'insettopia per tutti gli autistici. Gli autistici sono un problema molto grosso, sembrano piccoli come insetti perché nessuno li vede, sono trasparenti, o perlomeno tutti fingono che non esistano. Ma immaginate che gli ultimi dati che vengono dagli Stati Uniti dicono che un bambino ogni 68 nasce con dei disturbi generalizzati dello spettro autistico. Sono il 30% in più rispetto al rilevamento di 2 anni fa. Quindi è una sindrome in allargamento. Dipende anche dal fatto che è aumentata la capacità di diagnosi, ma è anche determinato dal fatto che ci si rende conto sempre di più che esiste una fetta importante atipica nella nostra società, e questa è la fetta che io vorrò che sia raccolta da oggi in poi in Insettopia, nel luogo in cui tutti gli autistici possono trovare comunque una loro collocazione. Non è un posto chiuso, non è un posto ristretto. Insettopia è ovunque ci sia un posto in cui viene coltivata la cultura dell'autismo, e dedico questa puntata a una categoria particolare di esseri umani interessati all'autismo. È una lettura totalmente atipica rispetto alla norma, perché oggi la puntata la dedico alle madri degli autistici. Le madri degli autistici, in una cultura arcaica, ignorante, totalmente ascientifica, sono ancora considerate, obtorto collo, sommessamente, ma in molti luoghi ancora chiaramente, la causa dell'autismo. L'autismo veniva diagnosticato come una sorta di carenza di affetto materno. Le mamme che non sono abbastanza mamme determinano il figlio autistico, una falsità totale. Ma ancora c'è gente che fa terapia psicanalitica familiare per capire come mai quel bambino è autistico. La mamma non l'ha guardato abbastanza quando l'ha allattato. Beh, io avrei voluto parlare del mio divertente e avventuroso viaggio quotidiano con mio figlio autistico, ma mi sono stancato di parlare dei padri eroici, perché noi siamo eroici soltanto perché sembra tipico che un padre si occupi di un figlio in maniera così costante. E quindi mi sono ascoltato la lettera che mi ha scritto una madre. Caro Gianluca, oggi vorrei che tu affrontassi, come già fai da tempo, un argomento difficile da sdoganare, perché è fuori moda. Io vorrei che tu parlassi del punto di vista femminile nella cura e nel trattamento delle persone con disabilità. Noi mamme dell'autismo non ne possiamo più di padri tronfi che portano a fare il giro del mondo il loro Giovi in pargoletto, commuovendo il mondo intero. Dov'erano questi padri quando il bambino urlava, piangeva, dormiva 2 ore per notte, spaccava tutto quello che avevamo l'ardire di mettere sotto le sue dolci manine e ci faceva fare la parte delle povere donnicciole senza nerbo di fronte alle altre mamme, alle maestre e anche al nostro stesso marito? Ecco, questa è una lettera che mi ha mandato una madre proprio nel sito dedicato a Insettopia, che raccoglie da oggi tutte le persone che vogliono aggiungere qualcosa all'inciviltà, all'incultura, all'ignoranza dell'autismo, qualcosa di saggio, qualcosa di che renda possibile individuare dei luoghi in cui si possa tranquillamente, serenamente e con fondamento concreto parlare di autismo. E quindi continua questa madre. Ti voglio chiedere di parlare di noi donne dell'autismo, affinché la nostra odissea non si maceri nell'oblio, non sia materia di trasmissioni pietistiche, di riviste per donnicciole, di rotocalchi da ultima pagina. Con affetto vero, Elena. E proprio perché io tutt'altro sono che una rivista per donnicciole, questa radio è tutt'altro che un rotocalco da ultima pagina, anzi è una radio che ha, di questo gli sono grato, il primato di essere una delle radio che più si è occupata di autismo, anche in tempi non sospetti. Sono anni che Radio 24 mi appoggia in questa mia difficoltosa ma appassionata battaglia per diffondere una cultura dell'autismo, e quindi questa puntata la dedico alle mamme. Parleranno soltanto madri di ragazzi difficili o di ragazzi speciali, secondo dal punto di vista, alle quali ho fatto 3 domande che trovo siano le domande fondamentali che si deve fare ogni persona, sia che soffra dentro di sé di questo tipo di problema o lo debba affrontare, sia che lo guardi come osservatore e senta che è un problema diffuso, un problema di cui socialmente ognuno dovrebbe farsi carico. Lucia, Gabriella, Corinna, Roberta, Linda e Alessandra, a ognuna di voi chiediamo: quando e come hai avuto la certezza del problema di tuo figlio? Prestissimo, sono stata molto fortunata, perché io mi sono accorta e ho sospettato delle sue stranezze intorno ai 9 mesi. E dopo aver accertato che non fosse sordo, in quanto la prima cosa che ho fatto è questo tipo di indagine, tutti mi dicevano: beh, vedi, sei contenta, non ha nessun problema, e dico: no, se non è sordo ha qualcos'altro. La mia fortuna è stata che di lavorare in ospedale, io sono un avvocato della Roma E, e accanto a me avevo in stanza un psichiatra molto bravo che mi disse: non perdere un attimo, e mi mandò a Via De Sabelli. Via De Sabelli è l'istituto di neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I, centro universitario di ricerca, dove ci fu una diagnosi precisissima, disturbo generalizzato dello sviluppo, autismo infantile. Ho avuto la certezza che mia figlia avesse la sclerosi tuberosa e poi in seconda battuta fosse affetta da autismo nel momento in cui l'ho guardata non con gli occhi di mamma ma con gli occhi di medico. L'ho vista sul lettino del neuropsichiatra che la stava visitando e in quel momento ho capito che era autistica. Ho avuto la certezza del problema di mia figlia a 3 anni, quando abbiamo visto che era chiusa nel suo mondo, non ci guardava più, aveva perso anche il linguaggio, e quindi lì è stato abbastanza veloce da capirlo. Perché è importante stabilire quando una madre si accorta che il proprio figlio abbia dei problemi dello spettro autistico? Perché difficilmente si accetta questa cosa, perché non c'è una cultura scientifica diffusa, perché è molto difficile trovare qualcuno ti faccia una diagnosi certa. E oggi è stabilito che se la diagnosi non è fatta entro i 2 anni di vita, si può fare molto per quel bambino. Ma naturalmente sono le nonne, le zie, i parenti, i confessori, ti dicono sempre: no, parlerà, non avrà problemi, vedrà. Invece no, se noi vogliamo diventare un paese civile, questo sarà uno anche degli impegni che si piglierà in Settopia o chi vorrà lavorare in questo progetto, dovremmo far passare una legge che stabilisca che la diagnosi precoce per l'autismo è uno strumento che fa bene a tutta la società, che permette di lavorare prima su questi soggetti, che non guariranno mai, ma potranno avere molte più autonomie rispetto a quelle che potrebbero avere quando si accetta in età già avanzata che loro siano autistici. La diagnosi di Antonio, la conferma ce l'ha avuta reale, ce l'ha avuta intorno ai 6 anni, anche se poi intorno già ai 2 anni e mezzo c'era qualcosa che non andava, perché lui si isolava un po', stava un po' per conto suo. Poi verso i 3 anni non cominciava a pronunciare le parole tipiche che si pronunciano a quell'età. Questo ovviamente me ne sono accorta con il tempo, che era una parte di me che non voleva accettare che mio figlio avesse un problema così importante. Ho capito che mio figlio poteva avere un problema a 18 mesi, anche perché aveva più che altro un problema di interazione con gli altri, insomma. Ho dovuto anche insistere un pochino, perché la pediatra appunto all'epoca mi disse: no, ma l'autismo è tutta un'altra cosa, non c'entra niente. Quindi insomma ho fatto i dovuti accertamenti e poi è stato diagnosticato l'autismo. Ci siamo resi conto che Giacomo cominciava ad avere dei problemi pochi mesi prima dei 4 anni, quindi l'autismo di mio figlio si configura tra i più rari che esistono. Quindi dopo uno sviluppo regolare fino ai 3 anni e 9 mesi, sviluppo parallelo alla sorella gemella, ha cominciato a chiudersi, a non relazionarsi più col mondo esterno, né tantomeno con la sorella con la quale era ed è legatissimo, e a smettere di parlare e a ripetere a memoria le frasi dei film e a isolarsi in un mondo tutto suo. E da lì è cominciato tutto. E diagnosi difficile, negavano fosse una forma d'autismo, anche perché è stata una forma lenta, anche se progressiva. Questo è l'inizio della nostra storia. Bene, la trasmissione non finisce qua. Fra un istante riprendiamo e continueremo con altre 2 domande che faremo alle madri, per capire esattamente qual è il loro punto di vista, che sembra così poco importante nella lettura generale che si fa dell'autismo. Melog. Cronache meridiane. Una volta capito che occorre prendere con coraggio coscienza dei sintomi di un bambino che comunque sfugge con lo sguardo, allinea i soggetti tutti in fila, tende a isolarsi, ha dei comportamenti ripetitivi e stereotipati, quindi potrebbe essere comunque nel vastissimo spettro dell'autismo, esiste un altro problema da affrontare. Cosa si fa per questo ragazzo? Chi ci aiuta? Dove si va? Quante saranno nel tempo le persone che assieme a noi si occuperanno di questo problema? Saranno pochissime, gli amici scompariranno, la vita sociale cambierà, le persone che sembravano così attente al nostro problema passeranno lentamente dal senso di compassione, dal senso di commiserazione, al senso di lasciarti solo, perché in fondo poverino, sai, col suo problema non può mai uscire di casa. E quindi la seconda domanda che ho fatto alle mamme riguarda proprio questo. Lucia, Gabriella, Corinna, Roberta, Linda e Alessandra, a ognuna di voi chiediamo: quante persone ti stanno vicino nell'accudimento di tuo figlio? Ci sono degli operatori che mi danno una mano in determinate giorni della settimana. Purtroppo lo aiuto è sempre poco rispetto alle esigenze del bambino. Lavoro per circa 3-4 ore al giorno. Questo mi consente di potermi dedicare a mio figlio nelle terapie, nell'accompagnamento. Antonio in questo momento ha bisogno di fare tante cose. Il momento in cui ci fermiamo e li lasciamo diciamo a se stessi, ci accorgiamo subito che c'è una regressione, per cui loro hanno bisogno di tanti stimoli. Poi probabilmente per lui in particolare questo momento è ancora molto fertile. Più tempo gli si dedica, più comunque ci sono dei risultati reali e importanti per lui. Stare dietro a un ragazzo di 18 anni, questa è l'età di mio figlio Giacomo, è impegnativo, anche se è un ragazzo tutto sommato tranquillo, a parte l'euforia ormonale dei 18 anni, ma non è un ragazzo, malgrado l'apparenza, che può uscire da solo o stare da solo in casa, quindi c'è una rete di collaboratori esterni pagati in parte da me, in parte con esigui contributi comunali, e soprattutto devo dire la famiglia, da parte soprattutto paterna, cioè vicina la nonna, gli zii, e su questo siamo molto fortunati, ma rimane comunque la conquista dell'autonomia, che è una battaglia da vincere. Riguardo a coloro che insomma mi aiutano, diciamo che quasi zero, nel senso nell'emergenza si riesce comunque a trovare un fratello, un parente, però io ecco ho un'altra figlia con normodotata, insomma, che tra l'altro anche lei è minorenne, quindi non posso più di tanto contarci, insomma. Nonostante mio marito nei limiti del possibile cerca di stargli dietro, uno in famiglia deve lavorare, quindi io tra l'altro insomma ho dovuto così lasciare il lavoro perché ho dovuto fare una scelta. Ho una babysitter che mi pago da sola, poi ho dei terapisti invece che fanno riferimento alle strutture pubbliche. Mio marito mi dà una mano, finché ce la facevano c'erano i nonni, ma adesso non facciamo da soli. Nel corso della vita di Roberto, che adesso ha 15 anni, le persone che hanno ruotato intorno a lui sono milioni, in quanto molti si sono scoraggiati fin dall'inizio, altri hanno tenuto più duro. Ho dovuto cambiare spesso operatori perché adesso lui è diventato un gigante di 1,85 m, pesa 92 kg, quindi le vecchie tate che io avevo a casa non erano più sufficienti. Lui quotidianamente è gestito da un operatore che io ovviamente pago privatamente e che sta sempre con lui, sostituito dagli operatori del SAISH che quando possono venire mi coprono 10 ore a settimana, e poi tantissimo il papà, perché mio marito lavora, è un libero professionista e quindi spesso sta a casa e si occupa di lui, e io nelle mie capacità fisiche riesco a seguirlo, sono molto piccolina, e Roberto ha anche una sorella adolescente con tutti i suoi problemi, e in questo momento, anche se lei è sempre molto carina e adora il fratello, bisogna anche un po' proteggerla. Le persone che gravitano intorno a Benedetta sono diverse, a partire dagli educatori e dai volontari del centro diurno che Benedetta frequenta e che nel pomeriggio l'accompagnano nelle varie attività pomeridiane che fa, che sono la musica, le lingue straniere, e poi naturalmente tutti gli amici del cuore, quelli che sono rimasti vicino, perché in presenza di autismo e di disabilità si crea il vuoto attorno. Diciamo, a parte io e mio marito, non ne abbiamo moltissimi, perché quando un adulto devi gestire un adulto è molto più difficile trovare persone preparate, persone che ti seguono. Quando era piccolo era più facile. La mattina chiaramente mia figlia va a scuola, e anche, diciamo, anche brava per fortuna, quindi poi il pomeriggio la portiamo noi abbiamo delle persone che gli fanno delle terapie, ma dobbiamo portarla comunque noi, quindi è molto stancante. E abbiamo soltanto una persona che ci aiuta qualche volta perché la viene a prendere con la macchina, ma pagata chiaramente da noi. E adesso la terza domanda che faccio alle mamme, la domanda che tutti si fanno in silenzio, che pochi hanno il coraggio di rivolgere alle persone con un problema di autismo in famiglia. Noi genitori non siamo eterni e nell'ordine naturale delle cose i nostri figli ci sopravviveranno. Quanti di noi pensano a questo come un progetto che deve impegnarci finché ancora abbiamo lucidità e capacità di poter immaginare un futuro possibile per nostro figlio? Hai pensato al futuro di tuo figlio quando tu non ci sarai più? Il pensiero del futuro di Giacomo e nostro è continuo, è frequente, è sempre nella nostra testa, soprattutto ora che ha le fattezze di un bel ragazzo di 18 anni pieno di energia. Per noi genitori è un chiodo fisso pensare quale sarà il loro posto in questo mondo. Ad oggi non c'è nulla di sicuro, nulla di adatto a loro, se non centri diurni mal gestiti, un po' tristi. L'idea di pensare che noi un domani non ci siamo più e vedere Roberto così fragile, così indifeso di fronte ad una società che non se lo filerà di testa, è un pensiero che ti angoscia. Il pensare al dopo di noi è una cosa che strazia il cuore, perché si pensa che non capiterà mai a noi e che saremo immortali. In realtà ho cominciato quest'anno a pensarci, insieme a degli altri genitori abbiamo messo su un'associazione che comincia a organizzare weekend nei quali loro stanno insieme a operatori, insieme ad educatori che vengono pagati e a volontari come gli scout. È un pensiero che c'è sempre, è latente e ogni tanto si ripresenta in maniera prepotente. Sono molto preoccupata perché per le persone adulte che hanno problemi cognitivi non ci sono spazi, non c'è niente. Di fronte a casa mia c'è un centro diurno, ma non ce lo porterei neanche morta perché sono dei parcheggi orribili. Sì, ci ho pensato e ci penso tutti i momenti, ogni volta che faccio qualcosa per lui penso a come sarà domani, come reagirà e come vivrà. E purtroppo non c'è una risposta. Sì, ho pensato e ci stiamo muovendo, cerchiamo di raggrupparci il più possibile, anche perché noi abitiamo in un paese che non ti dà molta speranza, quindi cerchiamo di farci noi il futuro per i nostri figli. Io vorrei per mia figlia quello che vogliono qualsiasi genitori per i propri figli, vorrei che lei avesse la sua autonomia, che vivesse la sua vita di ragazzina felice, con vicino una società che la capisce, diciamo così, avere un tessuto intorno a lei che ci fa stare a noi genitori tranquilli e dire vabbè, non ci siamo più, ma lei comunque non è sola, ecco, vorrei questo. Questo non suoni come un senso di disperazione o un senso di perdita di ogni speranza, no, il senso di Insettop è proprio di qualcosa che porta felicità, porta serenità, come può essere felice e sereno un genitore che sa che comunque in tempo lui ha pensato quello che sarà il futuro di suo figlio, che non sarà mai un ragazzo autonomo o una ragazza autonoma, nel minore dei casi, visto che sono più maschi gli autistici, ma sarà una persona che comunque avrà una rete attorno di altre persone con problemi simili, che possa aiutare a proseguire la sua esistenza nella più dignitosa delle maniere, anche quando noi non ci saremo più.